E sono 16 minuti primi dopo le ore 21. Siete a bordo dell'astronave Enterprise, qua nello speciale dedicato a Ugo Tognazzi. Abbiamo ascoltato un estratto della colonna sonora del film Il Vizietto con Michel Serrault, una pellicola che tra le altre cose è tra le mie preferite insieme ad Amici Miei. Mi piace proprio la grazia, la dolcezza e l'ironia che Tognazzi e Serrault hanno utilizzato in questa pellicola, assolutamente senza offendere il mondo degli omosessuali, ma bensì, secondo me, rendendolo così sempre molto dolce e molto tenero. È un film da vedere se volete ridere. Poi circa qualche anno fa è uscito anche un remake con Robbie Williams. Direi carino, però insomma Il Vizietto di Tognazzi e Serrault è tutt'altra cosa, almeno questo è il mio parere personale. Vi ricordo il mio account Twitter @demangio se avete voglia magari di interagire col sottoscritto, come si facevano nelle mitiche cene di Tognazzi dei 12 apostoli. Potete anche esprimere un parere sulla mia persona, magari bravo, bravino, sufficiente, cagata pazzesca, fate voi, dai. Sto scherzando, continuiamo. Ora abbiamo analizzato Tognazzi in veste di attore, ora lo vediamo invece in veste di regista, perché lui proprio si è autodiretto, passatemi il termine, in alcune pellicole. Sto parlando per l'appunto in un film del 1961, Il Mantenuto, a seguire Il Fischio Naso del 1966, Sì Signore del 1968, Cattivi Pensieri del 1976 e I Viaggiatori della Sera del 1979. Poi ha interpretato anche delle serie televisive per la Rai, quindi molto bravo, un artista completo, poliedrico e, passatemi il termine, anche molto molto, magari per certi versi un pochino bizzarro, però sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, il sapersi sempre, diciamo così, mettersi in gioco e creare anche cose nuove, prendere parte a pellicole magari un pochino differenti del genere della commedia italiana. Lo ricorderete tutti in Porcile con Pierpaolo Pasolini, quindi per dirvi Tognazzi che grande personaggio che era, che una mente libera, eccetera eccetera, che prendeva parte alle pellicole non tanto per il guadagno in fine se stesso, però magari riceveva un copione, come è stato anche nel caso del film di Pupo Avati che abbiamo ascoltato in precedenza, la colonna sonora, la mazurka del barone della Fico Fiorone. Magari gli piaceva lo spartito, tac, si immedesimava nel personaggio e quindi ne prendeva parte con entusiasmo e regalava veramente una prova di grande attore. Ora ascoltiamo proprio una delle colonne sonore dei suoi film che ha diretto in quegli anni. Volevo proporvi Cattivi Pensieri, però avevo già passato un altro brano appunto del maestro Trovaglioli, quindi ascoltiamoci ora la colonna sonora di Il Fischio al Naso, un altro film che a me piace molto. Colonna sonora è affidata a Le Pecore Nere con Teo Usuelli. Il titolo della canzone è La Conta. Colonna sonora per l'appunto di Il Fischio al Naso. La Conta, colonna sonora per l'appunto di Il fischio al naso, un film per l'appunto diretto da Ugo Tognazzi. Purtroppo il tempo è tiranno, abbiamo ancora 10 minuti di spazio per parlare di questo grande attore cremonese. Lo facciamo in questa ultima parte ricordandolo in una pellicola memorabile. Lo so che avete capito già di cosa si tratta, lo so, però d'altra parte è la mia pellicola preferita e non potevo non proporla qua a Star Trek. Che ne dite? Ecco, è arrivato anche il teletrasporto a complicare le cose. Vediamo se questa sera riusciamo a finire in tempo, non so, perché siamo sempre molto presi da un po' tutto, quindi è arrivato anche il teletrasporto a dirci che siamo quasi al termine, anzi soprattutto a vedere che c'è sul teletrasporto, chi è arrivato. Vediamo un po' se è arrivato qualcuno di nuovo. Chi è che è sbarcato a bordo dell'astronave Enterprise? Vediamo un po' chi c'è. Crisi, ragazzi, crisi. La crolla. Ma no, quello, Giuda. Crisi gravissima. Ah, siamo. Sì. Cosa ci racconti? Ma se ballavano mai fully chart, mangiavano a lume di candela? Sì. Allora. Ma siccome lui la voleva imboccare, gli si è bruciata la barba. È sempre il signor Conte. Rottura. No, al contrario. No, la barba non c'entra. No, dicono Eccolo che qua. Non possono vivere di compromessi, di sotterfugi, capito? Urla, strilli che sfondano le pareti. Vorrebbero gridare a tutto il mondo tenendosi per mano. Io amo Molly Fucci, io amo Cippa Lippa. Garzone del lattaio che passa per la strada. Probabilmente era rivolto al buon vecchio Melandri, se non erro, grandissimo veramente. Eccoci qua, ragazzi, ora parliamo proprio di Amici miei velocemente, visto che è il suo film, diciamo così, che è più ricordato, uno dei suoi film che insomma i giovani magari ricordano, però sappiate che insomma Ugo ha fatto tantissimi altri film degni di nota, veramente. Ugo Tognazzi appunto interpreta il conte Raffaello Mascette, un nobile decaduto che dopo aver diciamo così sperperato due eredità viene diciamo così aiutato da alcuni suoi amici di sempre, appunto l'architetto Rambaldo Melandri, il barista Guido Necchi, il professor Sassaroli, il giornalista Giorgio Perozzi. Insomma, la pellicola ruota attorno a questi personaggi che ne combineranno di tutti i colori, soprattutto tra sketch, gag, zingarate come le chiamano loro, e anche supercazzole, perché insomma la cosa è questa. È arrivato il momento di congedarci. Io ringrazio ancora tutti per aver ascoltato questo speciale dedicato a Ugo Tognazzi. Ora ascolterete proprio la colonna sonora di Amici miei, però prima c'è una piccola sorpresa, un piccolo estratto da Amici miei atto secondo. Devo essere sincero, è il pezzo che amo di più, mi piace molto questo pezzo, anche se è molto molto triste questa scena, no? Per certi versi è molto triste, però Amici miei è un film, come ben sapete, complesso, non solo ironico. Molti dicono sì, è un film che fa ridere così, ma non è solo quello, perché Amici miei è tanto, c'è oltre la comicità c'è anche la tristezza, la malinconia di uomini della nostra età che per certi versi con gli zingarate, con gli scherzi si divertono, però poi magari restano soli. Grazie a tutti per l'attenzione, noi ci ritroviamo a Dio piacendo qua su Spreaker per un'ennesima puntata di Star Trek. Questa sera abbiamo fatto questo bello omaggio, io vi ringrazio ancora e vi rinnovo l'appuntamento alla prossima. Ora c'è una piccola sorpresa per voi e ancora una volta buon compleanno Ugo. Ciao a tutti, grazie, ciao. Sono già passati 6 anni da allora. Oggi siamo in uno di quei momenti di depressione e di crisi, quelli che il povero Perozzi chiamava constatazione del nostro niente, e che Necchi invece dice che siamo 4 poveri bischeri. Insomma, in giorni come questi sarebbe meglio stare ognuno per conto suo, e invece si rimane insieme, anche se non abbiamo niente da dirci. Eppure cosa ci manca? Stiamo bene, la vita è sempre bella, e il futuro è pieno di promesse. Gambrinus, il tempo Figliano. Delle fave. Excelsior, il tempo dei finocchi. Odio. Oh, luminare, ma non ti vergogna la tua età e con la tua posizione. Un uomo del tuo valore fare con questo spirito da 4 soldi, e via. È proprio dai, perché ragazzi, sono un uomo di valore che posso permettermi di fare il biscro. È la gente che non vale una sega come voi che non se lo può permettere. Perché te credi di valere più di me? Certamente. Ricordati che la mia famiglia compare nelle cronache fiorentine fin dal 1191 e ci s'aveva una rocca sopra Figline Valdarno e due palazzi in città, mentre voi eravate ancora servi della gleba e merdaioli. Terapia tapioco! Prematurata la supercazzola o scherziamo?